veramente imparentato con il professore Brei, gira il mondo, in pratica diventa professore di filosofia in Brasile, quindi scrive metà dei suoi libri scritti in brasiliano, e altri poi a proposito anche in francese, in inglese, ma poi ha scelto soprattutto ovviamente il tedesco. Negli ultimi 10 anni della sua vita, lui è morto nel 1991 per un incidente, a 71 anni, quindi non propriamente giovane, ma neanche poi vecchissimo. E quindi morto, negli ultimi 10 anni della sua vita ha affrontato il tema dei media e dei mezzi di comunicazione. Allora, non ha mai prodotto una, diciamo, teoria così, insomma, poi non è teoria, non è che neanche McLuhan abbia mai prodotto una vera e propria teoria, però insomma, McLuhan per certi versi è un po' più grande. Ha detto alcune cose anche affini o simili a quelle di McLuhan, ma senza essere molto influenzato da lui, ma soprattutto leggendo, io lo sto studiando ora, quindi fino all'autore sono superato. Però, diciamo, i testi raccolti in questo libricino, per esempio, vanno dal 1976-77, addirittura i primi, al 90, che è l'anno prima della sua morte, e quindi, per esempio, prima dello scoppio di Internet, che lui non ha neanche potuto, diciamo, vedere. Eppure sono terribilmente precisi riguardo a una serie di, diciamo, dinamiche che sono... Allora, in alcuni scritti degli anni, mo vi dico quando, non mi ricordo. Degli anni, dove stanno le immagini? Beh sì, più o meno degli anni 80, 90, no, 74, uno. Una fenomenologia della televisione del 74, per cui scusate. Comunque gli altri sono più o meno gli anni intorno al 1990. Lui ha affrontato effettivamente proprio il problema delle immagini e diciamo che cosa era cambiato nel corso dell'Ottocento e sempre cosa stava cambiando negli anni in cui scriveva queste cose, con l'avvento di delle tecniche di riproduzione dell'immagine. Allora, la prima cosa che vorrei leggervi è una idea dell'immagine come dispositivo astuto. L'immagine per Flusser, lui dice, è un dispositivo astuto. Adesso vediamo perché, che cosa dica. Lui parla prevalentemente della fotografia, ma ormai dovrebbe essere chiaro che la fotografia per certi versi è uno dei paradigmi dell'immagine tecnica, dell'immagine tecnologica, dell'immagine generata e riprodotta meccanicamente, insomma, o anche chimicamente, quindi, diciamo, lavorando sulla fotografia, che ha il vantaggio di non avere tutte le complicazioni, diciamo, semiotiche del cinema, dell'immagine in movimento, e non essendo obiettivamente così, diciamo, narrativa come un certo cinema è poi, diciamo, diventato, ma come era ovvio che sarebbe, diciamo, diventato, perché c'è l'immagine quando abbiamo delle immagini, quando sulla superficie dell'immagine è riprodotto il movimento, la tentazione della narrazione è sempre molto forte. Voi però sapete tutti bene, e non ho bisogno di dirvelo io, che ci saranno persone in questa accademia che lo potranno spiegare molto meglio di me, che il cinema narrativo è, non che sia una cosa totalmente casuale, ma insomma è una scelta particolare che il cinema ha fatto, diciamo, e che ci ha messo qualche decennio prima di vincere e di affermarsi, perché ci sono tutta una serie di altri usi del mezzo cinematografico negli ultimi anni dell'Ottocento e negli anni 10 e 20 che non sono assolutamente diegetiche, che non sono assolutamente narrative, non hanno alcuna, che non raccontano delle storie, ma fanno vedere semmai degli angeli che danzano sulla capocchia di uno spillo, dico, per ricordare il celebre film di Man Ray, fatto in collaborazione con Duchamp, in cui si vede una danza di spilli meravigliosa che, per nostra fortuna, non racconta niente, non presume di raccontarci nessuna storia. Però, naturalmente, insomma, era ovvio che il cinema, come dire, popolare avrebbe... ed era in qualche modo, c'è una logica nel fatto che il cinema abbia vinto la narrazione, mentre ogni volta che la fotografia cerca di farsi narrazione e in genere ha esiti ridicoli. La fotografia è essenzialmente testimonianza, è la fissazione, come diceva credo bene Benjamin, aspetta, abbiamo letto l'ultima volta, è la fissazione di un aspetto della realtà che normalmente l'occhio umano non può cogliere, non può vedere, quindi che non, diciamo, che non è, che non basa alla coscienza dell'uomo, ma la fotografia di per sé non racconta nulla, la fotografia, come diceva Roland Barthes, ci dice quell'uomo, quella casa, quell'oggetto è stato là. È una prova che un qualche oggetto, una prova. Ma non era Barthes che parlava in questi termini? Sì, Barthes. Barthes. Barthes. Sì, Barthes. Pensavo si ripresse. No. Colin Barthes. Mi sono distratto. Ha scritto Barthes, non so. Sì. Però si legge Barthes. Allora, come dice Barthes, è stata là. In realtà poi lo dice anche Bazin, dopo Barthes l'hanno detto un sacco di persone, ma credo che il primo che l'ha detto, comunque quello che l'ha detto meglio di tutti fra i primi sia stato Barthes. Quindi ogni tradivo, va bene, questa è una digressione, ma insomma. Allora, io leggerei questa paginetta un po' più lunga di quella che ho letto l'altra volta di Cosmo. Fa parte di un saggio chiamato Lo status delle immagini, che mi sembra sia degli anni intorno al 90, dell'89, pubblicato nel 99, e il capitoletto si chiama Strategie e fotografia. La maggior parte delle fotografie, scrive Flusser, e ve ne è davvero un numero incalcolabile, non fa che attestare l'intenzione preprogrammata nella macchina fotografica. Leggo, la maggior parte delle fotografie, togliamo l'inciso, non fa che attestare l'intenzione preprogrammata nella macchina fotografica. Si tratta di immagini prodotte astutamente trattino tecnicamente perché suscitino nel destinatario l'apparenza dell'oggettività. Il cosiddetto punctum di... chi è? Sì, non è detto che siano cose totalmente originali. Foto del genere in realtà avrebbero potuto essere realizzate anche senza l'intervento di un fotografo. Con buona pace di metà della critica d'arte contemporanea che sui fotografi sta costruendo con il suo studio, nonché dei giornalisti d'arte più pigri sul mercato. Allora, foto del genere in realtà avrebbero potuto essere realizzate anche senza l'intervento di un fotografo, grazie a un otturatore automatico, perché i loro autentici produttori sono il tecnico che ha progettato la macchina fotografica e l'industria che ha impiegato il tempo. Chi scatta la foto non fa nulla di diverso dall'otturatore automatico. Segue le istruzioni per l'uso, diventate nel frattempo sempre più semplici e amichevoli nei confronti dell'utente. User friendly, lo dice lui. Ma anche la maggior parte delle fotografie cosiddette artistiche rientra nello stesso genere di immagine. Il fotografo artistico cerca di estrarre dal programma della macchina fotografica qualcosa che non è ancora mai stato ricavato. Tenta di produrre immagini originali. Ma se gli si lascia il tempo sufficiente, anche un otturatore automatico fa altrettanto. Anzi, scatta con una rapidità molto maggiore dei fotografi d'arte. E dice, cazzo, ci ha distrutto tutto, come diavolo facciamo? Non è vero. Esiste tuttavia un numero molto esiguo di fotografie in cui è possibile vedere l'esatto capovolgimento di questa intenzione. In esse ciò che conta è precisamente sorprendere con astuzia l'astuzia del programma della macchina fotografica e costringere l'apparato a fare qualcosa per cui non era stato costruito. Ci sono una serie di motivi per cui persone come me, e adesso dico anche Bifo, anche se non voglio coinvolgerlo in un dito che possono essere discusse. Comunque, perché persone come noi, o comunque come me, insomma, sono così attirate da una frase di questo tipo e da un programma politico-culturale come è sotteso da questa frase. In esse ciò che conta è precisamente sorprendere con astuzia, l'astuzia del programma della macchina fotografica e costringere l'apparato a fare qualcosa per cui non era stato costruito. Diciamo, alla fine del movimento degli anni 60 e insomma, 70, dei movimenti sociali degli anni 70 e 70, emerse esattamente, cominciarono a emergere esattamente delle tendenze che erano poi molto simili al punk internazionale, il punk italiano un po' più tardo, eccetera, ma insomma, influenzate molto più di quanto non fosse stato il 68 parigino dalle teorie situazioniste, secondo le quali era totalmente insensato e pazzo contrapporre alla dimensione del potere un progetto speculare e però diverso e antagonista, mentre era molto più diciamo, utile, oltre che anche divertente, bisogna dire che la cosa non è poi che sia senza nessun significato, proprio fare l'operazione che Flusser dice in queste righe, cioè sorprendere l'astuzia di ciò che è già programmato, di ciò che viene dato come diciamo scontato e rovesciare contro l'apparato, diciamo, delle macchine ufficiali o delle intenzionalità ufficiali o dei poteri ufficiali, questo diciamo la loro astuzia. L'intenzione dei produttori di tali fotografie è di creare delle immagini che si mettano di traverso rispetto al diluvio delle immagini. Immagini che costringano gli apparati a funzionare contro il loro peculiare progresso apparatico. L'esporre e l'osservare tali immagini istituisce nell'oceano di immagini un'isola su cui non solo si trova rifugio, ma da cui si può anche tentare di riprendere in mano le redini da cui gli apparati si sono ormai svincolati. Qui sorge la domanda sul perché proprio le fotografie e non altre tecnoimmagini, per esempio i video o i ologrammi, dovrebbero venire beffate con questa astuzia. Flusser è convinto che questa operazione, cioè di ritorcere, di costringere l'apparato a fare qualcosa per cui non era stato progettato, sia più facile e più produttivo e anche più proprio farlo con le fotografie piuttosto che con altre immagini, dice i video o gli ologrammi. A prima vista questa, cioè perché bisogna farlo con le fotografie, sembrerebbe una domanda mal posta. Non esistono forse ovunque delle esposizioni di immagini tecniche che tentano proprio questo superamento astuto degli apparati? È chiara l'obiezione, lui dice, ma forse non è così perché già ci sono delle immagini prodotte diciamo, all'interno della logica dell'apparato che, come dire, all'interno di questo tentano un superamento assoluto dell'apparato. Insomma, il capitalismo è fatto così, ha ormai dimostrato nella sua breve storia, ma insomma in quei 2 o 3 secoli di vita che ha, e lo ha proprio dimostrato l'ultima volta proprio con la chiusura del ciclo politico e culturale degli anni 60 e 70 e la nascita del cosiddetto post-fordismo, ha già dimostrato di essere molto capace di produrre rinnovamento all'interno e di giocare contro la propria stessa logica, o meglio contro la versione N-1 della propria logica. Cioè il capitalismo pare si è fermato, non so di che. Pare che sia sempre più capace di produrre versioni N+1 delle logiche, delle cose. Quindi dice, forse non è così, forse già ci sono dei forse già esiste un superamento assoluto degli apparati anche all'interno degli apparati, questo è giusto. Ma invece sì, così no. Ma considerando le cose più da vicino, la domanda si rivela una buona domanda. Eccezione fatta per le macchine fotografiche, tutti gli apparecchi che producono immagini non sono ancora stati sfruttati integralmente e quindi celano ancora in sé delle sorprese per i loro potenti. Vi convince questa cosa? Se non vi convince, provo a commentarla meglio. Un'altra delle caratteristiche delle macchine capitaliste è proprio questa. Per questo il capitalismo è così umano anche così, come dire, produttivo, insomma, e quindi così pericoloso. No, il capitalismo riesce a, cioè ha nel suo funzionamento, come dire, è in qualche modo una sorta di realizzazione tecnica dell'umano. Come l'essere umano è l'essere che più di ogni altro possiede, abita, regno del possibile, l'unica cosa, la cosa veramente di base che ci distacca dalle altre specie animali, ma non ovviamente dalla biologia, è il fatto che noi, tutta la nostra cosiddetta natura umana, probabilmente non è altro che un immenso campo di possibilità. Non è possibile dire cosa sia la natura umana in positivo, tranne dire che l'essere umano è un campo di possibilità e cosa. Quindi l'essere, come dire, cioè, l'essere umano è l'essere per antonomasia che cela delle sorprese per se stesso e per i suoi amici, e anche per i suoi amici. Bene, mentre la gran parte delle macchine precapitalistiche non hanno questa caratteristica, cioè sono macchine che non celano tante sorprese, possono fare solo quello che fanno. Le macchine capitaliste hanno, se non tutte, una gran parte hanno, e l'ultima delle macchine capitaliste è l'epitome di questa sterminata possibilità e sterminata potenzialità, no? Il computer non è una macchina, è una metamacchina. È una macchina in grado di produrre macchine, potenzialmente tutte le macchine del mondo. È in grado di simulare tendenzialmente qualunque tipo di funzionamento algoritmizzabile, ed è in grado addirittura di simulare le simulazioni, quindi di fare delle meta che sono simulazioni, per cui cioè, in questo senso diciamo il computer è l'epitome della macchina capitalista, è la macchina capitalista sinora perfetta. Allora dice Flusser che tutti gli apparecchi scrive questa cosa nel 1989, voi potete pensare che sia, diciamo, datata, è una critica, no, nel non, ho sbagliato l'anno, ragazzi, nel 91 era il colloquio, nel 91. Sì, correggete chi avesse preso appunti, corregga, il nastro si corregge da solo, ma il nastro è la registrazione, perché l'ho detto. Ma. Allora, voi potreste pensare che questa cosa di Flusser sia abbastanza peregrina e che comunque magari fosse vera 15 anni fa, ma non è. Allora, sostiene Flusser che tutti gli apparecchi che producono immagini non sono ancora stati sfruttati integralmente. Questa storia del capitalismo ce l'ho aggiunta io, cioè non è che questa parte della lezione è mia, non io non la fa Flusser che no. Quindi mi permetto di commentare, quindi commentando dico delle cose che magari con cui Flusser non avrebbe fatto, ma io insomma ci vedo questo. E quindi queste macchine hanno ancora in sé delle sorprese per i loro utenti. Che cosa significa questo? Significa che nel normale funzionamento di queste macchine, anche un funzionamento apparatico di queste macchine può produrre risultati nuovi e vie non sperimentali. Lui dice, ciò vale anche per la cinepresa. Filmare sperimentalmente è ancora possibile. E tutte le esposizioni artistiche citate in precedenza, che ha citato prima, non mi ricordo quali, insomma non nel pezzo che vi ho letto io, sono dedicate appunto a tali esperimenti e a tali apparati. La macchina fotografica invece, e si capisce anche perché, insomma, va ormai considerata come del tutto trasparente, perché è la prima. Cronologicamente è la prima e concettualmente è la più, virgolette, naturale, no? Si basa sul principio della camera oscura, del corso. Non c'ha una telecamera con i CCD, mi scuso se dico cose insomma desuete, cose grandi di Bond non ci sono più, ma insomma quando c'erano, io mi ricordo che ero un po' meno vecchio di adesso, quindi una telecamera con CCD non funziona come una macchina fotografica ottica, cioè fa una roba diversa, no, una roba diversa insomma, cioè è in grado di, e infatti vede al buio, cosa che le macchine fotografiche chimiche non sono in grado di fare, perché siccome ha CCD, charger, scope, ma anche perché ci sono dei processori, a parte i processori che va bene, ma c'è in primo luogo un effetto fotochimico di implementazione, di creazione di nuovi fotoni, certo. Il CCD produce dei fotoni nuovi dove ce ne pochi, questo la macchina fotografica non è in grado, diciamo, di farlo. Quindi la macchina fotografica ha un funzionamento relativamente semplice, relativamente, virgolette ragazzi, naturale, è la più antica, perciò, dice Flusser, la macchina fotografica invece va considerata come del tutto trasparente, anzi come ridondante, e molti fotografi parlano della fine ormai incombente del fotografare, già nel 91. Se qualcuno oggi fa delle fotografie, virgolette, sperimentali, ciò accade perché non ha capito che dalla macchina fotografica resa trasparente non esce fuori più nulla con cui si possa sperimentare. Non ve lo dite a Basilico e neanche a Paolo Rosa, che sono tante fotografie. La cosa che conta piuttosto è ingannare con l'astuzia un apparato ormai pienamente automatizzato e che perciò continua a funzionare per forza di inerzia, sputando fuori milioni di immagini. Mi rendo conto che la cosa vi può sembrare strana, ma insomma questa è un po' una imposizione da non proprio molti nemici, molto noi. Ricorda la frase di Hölderlin che dice: là dove c'è il pericolo cresce anche la salvezza. È buttandosi dentro una macchina così desueta, così banalizzata, così impossibile da che si può davvero provare ad ingannare. Il sistema non è ingannabile con le macchine che producono, che hanno dentro di loro già insite delle zone di possibilità. si può ingannare con una macchina esausta, con una macchina che abbia già, perché quello è, sembra quella che sia più, diciamo, pericolosa. Invece in realtà l'ultima frase non è l'ultima, l'ultimo periodo, eh. Ma esiste anche un'altra spiegazione del fatto che proprio le fotografie sono ciò che ci vuole per versare con astuzia la tecnologia. Le macchine fotografiche, al pari di tutti gli apparati nati dopo di esse, sono apparati che producono immagini. E le foto sono immagini moltiplicabili e diffondibili come tutte le immagini tecniche. Ma le foto sono ferme e silenziose e aderiscono a una superficie. Mentre tutte le altre immagini tecniche o si muovono, o emettono suoni, o fanno tutte e due le cose. O si estendono anche tridimensionalmente e acquistano volume. Perciò le fotografie a prima vista appaiono come le vecchie immagini, ed esistono effettivamente immagini che precedono l'avvento degli apparati, le litografie per esempio, che costituiscono un ponte tra le vecchie immagini e le fotografie. Se perciò si inganna con astuzia la macchina fotografica, la si costringe in modo strano a produrre, contro il programma in essa incorporato, qualcosa come una vecchia immagine. I produttori di tali immagini cercano, per così dire, di costringere un apparato a ritornare indietro sino alla scorta. Bravino, il produttore è anche bravo. Allora, questa idea che quindi le tecnologie siano dei dispositivi, e adesso non so il termine tedesco che usa, perché non l'ho letto in tedesco, ma se fosse in inglese sarebbe device. Le tecnologie per produrre immagini sono dei dispositivi, secondo Flusser, astuti, che possono essere a loro volta beffati. Allora, adesso non so se lo trovo più, ma insomma, questa cosa è collegata con un'altra roba che dice Flusser, a più, diciamo, ripresa in questa serie di saggi sulle immagini. E mi pare un riassunto, non voglio dire esauriente, ma che perlomeno coglie una delle dimensioni del sistema dei mass media, come si è andato formando fra 800 e 900. E cioè che le immagini, questa funzione ci hanno sempre avuto un po' le immagini, anche le cosiddette vecchie immagini, come diceva Flusser, cioè quelle pretecniche, prodotte a mano con qualche cosa, e hanno, ma tanto più le immagini tecniche, però questa cosa diventa più immagini tecniche. Insomma, queste immagini sono degli strumenti per indirizzare il comportamento delle persone, costituiscono più della, diciamo, parola. Certamente che ci sono anche condizioni linguistiche che ci mancherebbe altro, che che tentano di indirizzare il comportamento delle persone. Non a caso, perlomeno nelle lingue europee, esiste un modo verbale chiamato imperativo, e si possono introdurre frasi come chiudi quella porta, mangia quella minestra, vaffanculo. Sono tutte tre frasi imperative che impongono ad una persona di fare una certa cosa. Ma la parola, per la sua origine e per la sua, e tanto più dopo l'avvento della, diciamo, scrittura, dopo l'avvento della scrittura, anche la parola parlata ha perso quell'aura di sacralità, eccetera. Nessuno potrebbe pensare di fare, diciamo, lezione come Cicerone o no, non so, sarebbe un chiedo fettino, insomma, Quindi, come dire, la diciamo, parola parlata o scritta, cioè quella scritta più di quella parlata, ma dopo l'avvento della scrittura in gran parte anche la parola parlata, ha un carattere dialettico, ha un carattere dialogico anche quando è un come dire, discorso, tu dite, non ci pigliare per il culo perché tu sei qua, parli sempre tu e il dialogo in quest'aula non ce n'è. Implicitamente in qualche maniera anche una lezione tradizionalissima come quello che faccio io, che non sono per niente nuovo, frontale eccetera, ha dentro di sé un germe diciamo di dialogo, perché volente o nolente produce nella mente dell'ascoltatore delle reazioni che a priori non posso sapere, anzi posso quasi presumere che a priori non saranno conformi alle mie intenzioni, a quelle delle mie diciamo, parole. La parola parlata o scritta sarà sempre fraintesa, cioè c'è sempre un circolo ermeneutico, non può scappare, insomma. Per l'immagine non è così. Non c'è circolo ermeneutico per l'immagine. L'immagine è una cosa evidente, auto-evidente di per sé. Non ha spazio dialettico. Non credo che... No, a me potrebbe vedere a 4, sì. No. Perché se le cose piacciono, credo che sarebbe mostruosa. Caro mia, a 4 dimensioni non oso neanche immaginare. Non lo auguro al mondo. L'immagine... Certo che posso fare la critica d'arte, ma sono tutte dimensioni aggiunte, sono tutte diciamo, commenti che hanno a che fare con il regno della parola e della riflessione, dell'interiorità. L'immagine non ce l'ha queste cose. L'immagine è superficie e come dire, se ne vanta. Non c'è nessuna, come dire, profondità. Soltanto l'abissale idiozia dei critici d'arte può cercare nei quadri le profondità, la profondità del Caravaggio, tutte balle, tutte robe, cioè le immagini sono piatte, bidimensionali, auto-evidenti, rappresentano delle cose concrete, astratte, cioè anche un Mondrian, diciamo, è in qualche maniera una rappresentazione, per non dire quadri insomma, cubisti che non hanno affatto superato la soglia, rappresentano in modi diversi e rappresentano cose diverse da quelle del quadro di Trezzale, ma rappresentano sempre qualche cosa. Ma non c'è circolo diciamo, ermeneutico, non c'è funzione ermeneutica nella diciamo, immagine. L'immagine può essere presa o lasciata. L'immagine sta lì, è altro. Bene, io continuo a come dire, guardarla oppure volto la testa dall'altra parte. È difficile fare la stessa cosa con le parole. Ci sono delle parole parlate o scritte da cui noi non possiamo diciamo, prescindere. Hannah Arendt lo ha detto molto bene, lo ha scritto molto bene a proposito del nazismo. Uno ha un bel voler diciamo negare come dire l'olocausto, io sono contro questo grande can che si fa di non far parlare, fateli parlare, perché ogni parola dei più deficienti diciamo revisionisti, ogni parola di Nolte è una cosa in più per asseverare che quello è stato uno degli eventi e degli esiti fondamentali della storia del Novecento. Il programma revisionista è battuto in breccia proprio veramente, non ha, perché la parola, perché il ricordo, perché la sua testimonianza, perché l'evento tradotto in parole da Primo Levi, da André Schwarzbart eccetera, quello è, per esempio, ecco, delle parole a cui non si può sfuggire. non è possibile sfuggire, non è possibile voltare la testa dall'altra parte come si fa con una immagine. Ma se è teoricamente così facile, così semplice, è più semplice per le immagini che per le parole, invece in pratica le cose vanno diversamente. Perché in realtà statisticamente noi non voltiamo la testa di fronte alle immagini. Perché l'immagine è l'unica cosa che ci seduce davvero. La parola può far finta di essere seduttiva, può far finta di essere convincente al di là di una sua... Dopo un po' l'imbonitore lo riconosciamo, insomma. Adesso soltanto l'Italia può avere ancora il 50% di persone che credono in un signore dalle fortune misteriose quanto alle origini e dai coinvolgimenti con le cose più oscene della società italiana. Hai capito di che parlo, no? Berlusconi, insomma, quindi, però diciamo, la parola ha dei limiti, non si possono raccontare bugie, no, si può raccontare ovviamente se uno è abbastanza bravo, ma anche la, come dire, bugia avrà un suo sistema, una sua cosa, eccetera, e in qualche maniera anche la menzogna nel linguaggio dice una verità. Nell'immagine non c'è nessuna verità, nell'immagine c'è evidenza, c'è auto-evidenza, c'è ostensione, c'è presentazione, è qualcosa che si presenta, non è né vera né falsa l'immagine, non è che un'immagine vera o falsa, che corrisponde più o meno alla scena a cui quello sappiamo bene, che né l'immagine dipinta, disegnata, né l'immagine riprodotta tecnicamente, cioè la fotografia, ci dà la garanzia che sia quella, perché non esistono immagini perfette, non esistono immagini neanche gli alberi sono fermi, ci dice intelligentemente John Ronald Reuel Tolkien, sono degli enti, sono degli esseri, alcuni alberi. Quindi le immagini, e allora le immagini paradossalmente non lo so, ma insomma, cioè proprio perché sfuggono alla dialettica, sfuggono alla costruzione, al confronto, sfuggono al circolo dell'ermeneutica, hanno questa potenza di prescriverci un comportamento. È ovvio che Flusser scrive tutte queste cose, penso sia ovvio, pensando alla televisione, obiettivamente la televisione è quella, è stato il mezzo che più di ogni altro mezzo, non ci sono metodi di comunicazione di massa precedenti che abbiano neanche preteso, perché il bello della TV è che la TV non lo pretende, lo fa, lo opera, diciamo davvero. Il giornale, la Repubblica che oggi Roberto si è dimenticato da qualche parte, erede, dico la Repubblica perché è più del Corriere della Sera in Italia. Allora, quando c'è un giornale schierato, è chiaro che questo giornale, per esempio la Repubblica, pretende di darci una qualche linea, ma non il suo, diciamo, l'effetto di una pretesa del genere, semmai Scalfari ce l'ha avuta, e sicuramente ce l'ha avuta quando la fondò, o il ben più modesto signore che la si dirige adesso, come dire, se hanno mai davvero pensato di poter realizzare, cioè è chiaro che non si realizza, non c'è l'esercito, non c'è il partito di Repubblica che si muove con patria, ma neanche per i giornali di partito. Io scrivo per Unità e ho nel massimo disprezzo tutto ciò che ha nome di Partito Democratico, di S, PDS, Margherita, eccetera, perché sono cose che si possono fare, cioè, come dire, insomma, anche le storie del Manifesto o Liberazione hanno varie. Quindi anche il giornale più schierato non determina, il giornale, cioè un metro di parola scritta, non determina la generalità e la pervasività, non diciamo profondità, la pervasività di comportamenti che generano i media basati sulle immagini. In primo luogo la televisione. Questa è un'altra ragione in più, penso io, perché oltre a quelle che dice Sona Flusser, che ci dovrebbe sconsigliare, no? Ovviamente non ho nulla contro le strip TV, e trovo giustissimo il tentativo di divolgere anche in parte lo strumento di Dio, però non ci possiamo fare nessuna illusione, insomma, la, come dire, televisione in quanto strumento, e al di là della sua caratteristica, certo, al fondo c'è sempre il modello comunicativo uno molto monodirezionale senza nessun ritorno, è chiaro che quello è, però al di là di quello è proprio la logica di funzionamento di una roba prevalentemente basata sull'immagine sonora, certo, l'immagine sonora, che è una formidabile generatrice di comportamenti. Facciamo una pausa e vi leggo l'altro pezzo.